Penso di sì perché sono dubbi, così è Giulio. Questo è il microfono suo. Sì, ci sono frequenze di trasmissione, anche quelle di registrazione. Certo, sì, ma io con l'apparato lì ce l'ho avuto proprio nei primi anni 70 e era bellissimo. L'unico problema era che aveva un difetto, nel senso che allora, in quel periodo, era un pochino difettoso per quanto riguardava le interferenze. E mi ricordo anche che io gli avevo abbinato una volta, avevo un VFO della IL elettronica, avevo abbinato al quarzo alla transistor oscillatore, gli avevo attaccato quello, e con questo VFO andavo a sintonia continua per tutte le radio del mondo, ripeto, radio del mondo, private e non, perché prendeva tutto indistintamente. Solo che l'ho usato poco, anche perché dove abitavo prima c'era problema, in quel caso lì con quella radio c'era problema dei TV, e allora io me ne ero disfatto, e mi ricordo che l'avevo dato a Rosa Verde, ti puoi immaginare, l'avevo venduto a Rosa Verde, buon'anima. Vai Claudio. Ha lasciato un attore di bianco, se vuole entrare qualcuno, va bene, va bene. Sì, Gianfra, e fai conto che questo sia un microfono normale, solo che anziché essere normale da tavolo, la distanza è circa 10 cm, 15 cm, perché ti ripeto, il microfono non è eccezionale, però cercherò di usare questo perché va bene, tutto qua. Ok, cambio per Gianni, se vuole riprendere, se non riprendi tu Gianfra. No, negativo, ho sentito, ho visto che stavo facendo delle prove su qualche canale sotto, non so se fosse lui o qualche altro, e poi c'è attività sul 23, come sempre. Cosa ti volevo dire? Sì, quindi questo apparato, avendo 46 quarti praticamente, e considerando soprattutto l'età di questi quarti, ti è andata proprio non bene, benissimo, perché già te lo ricordi quanti quarti dovevamo cambiare per un motivo o per l'altro, poi si mettevano a camminare e andavi fuori frequenza, e quindi lo vuoi comprare e rimettere, perché quegli apparati, tutti quegli apparati quell'epoca, dovendo gestire così tanti quarti, ogni tanto ne partiva uno, quindi ti ritrovavi in difficoltà. Sì, decisamente. Quindi un bel apparato sicuramente. Beh, Ventina. E chi è? Io già l'ho riconosciuto, riconoscilo tu. Buonasera amigos. Va bene, dai. Ok, allora il cambio per l'amico, ci vuoi entrare? O aspettiamo che ti riconosca Gianfranco? C'è anche Giulio Dollaro, Gianni in QRX, momentaneo sicuramente al telefono, non lo so, decidi tu cosa vuoi fare, avanti. Stand by. Allora, buon stand by e non ti drummi, KK. Va bene Gianfranco, non mi fare molte domande su questi vintage perché non sono molto preparato, Giulio magari ne sa più di me. Io questo sì l'ho avuto, Giulio, l'ho avuto nel 77-78 quando ero a casa di mia madre, e me l'aveva dato, me l'aveva venduto, anzi me l'aveva comprato mia madre da zio Paolino Culto, ok? E lui ci aveva comprato il Tenco 46T, il Tenco 46T, e a me mi aveva venduto questo Pony 23 canali, ed ero entusiasta perché era già bello da allora, che era difficile appunto avere questo tipo di radio in quegli anni lì. E poi il funzionamento che ha sempre avuto, però non mi ricordavo che aveva due altoparlanti, uno a destra e uno a sinistra, capito? A te Giulio K. Ok. Sì, no, ma io mi ricordo che non sono 46 quarti, Gianfra, perché ci sono dei quarti di sintesi anche, no? Magari con un quarto di trasmissione e di avviciazione abbraccia, non so, 4-5 canali e così via. Adesso non mi ricordo più, sono passati 40 anni da allora e oltre, per cui non mi ricordo quante quarti possono avere. Può avere quel baracchino lì, però 46 no, assolutamente no, forse saranno una quindicina, massimo 20 penso, perché ci sono dei quarti di sintesi, per cui io mi ricordo così perlomeno, può darsi che mi sto sbagliando, non vorrei dire una cretinata, però mi ricordo che è così. Qua è Gianfranco. Sì, volevo salutare, adesso non vorrei sbagliare, perché l'ho sentito con la voce non sua, un po' rimbombante da orco qua. Comunque, se lui è sicuramente il carissimo con 3-4S. Sì, ciao. Mi sembra una vita che non ti incontro più, va bene? Con questa storia che siamo tutti prigionieri, è anche normale, ma caspita, veramente c'è un sacco di gente che non vedo più, perché proprio o è sparita o si vede poco, non ci sono delle occasioni, vabbè, non macello. Comunque l'importante è esserci almeno in radio, ci sono anche su, a volte, non sempre, perché sto sempre a girare, a scambagliare, eccetera. Comunque fa piacere sentire, diciamo un po' che ancora siamo tutti presenti, ecco. Riprendi, Claudio. Cappa, va bene, sì, ma l'amico già è sempre presente, dai, lui è sempre in agguato, in ascolto, già va bene, ciao carissimo. Già mi ha riconosciuto, sempre Claudio Spagliero dalle alture qua di Carbonazzi, sto andando con una vecchia baracca, va bene, ok, avanti Giulio. Ok, sì, e io vi saluto anche, dai, me ne scendo giù, ci sentiamo, ciao, grazie per la chiacchieratina e ci sentiamo, sono entrato proprio per chiarire un attimino il discorso, microfoni eccetera. Ciao Claudio, comunque vanno bene tutti, non c'è problema, tutti alla grande come sempre. Ciao Gianfranco, salutoni, ciao Gianni se ci ascolta, e salutoni anche all'amico, intanto fa un piccolo cenno di voce. Ci sentiamo, ciao a tutti, riprendi Gianfranco, io ascolto finale e poi chiudo, dai. Giulio, se vuoi ti provo anche il corno di bue. Forse, magari anche quello andrebbe bene, non ci sono dubbi. Andrebbe bene anche quello, qua, ne sono più che convinto. Va bene, dai, ci sentiamo alle prossime. Riprendi Gianfranco. Sì, Claudio, non ho capito quello del corno di bue, ma cosa ci devi fare col corno di bue? È una cosa tra me e Matro Giulio, hai capito? È una cosa tra me e Matro Giulio, non lo possiamo rivelare. Ciao Giù, un abbraccio grande, grazie dei controlli, grazie dell'intervento, grazie di tutto. Ciao Giulio, buona serata, alle prossime. Ciao Giulio. Te lo dico? Allora, Giulio dice sempre, a me personalmente, che io posso anche trasmettere con un corno di bue, e lui è convintissimo al 100% che la mia modulazione sarà sempre fedele. Ecco qual è il problema. È sicuro. Però sarebbe sempre troppo amplificata col corno di bue. Vabbè. Oh, Antone, prestami un bip a mettere in questa radio che non è aga. Già te lo metto, guarda, adesso guarda, uno di questi giorni vado a Tomma Giuseppe Intrepido, dico dagli a Claudio Spalviero la tua modulazione, almeno no, ha finito di usare i microfoni amplificati. Quanto è, ma dove stai andando il volo? forse in aereo più che in elicottero, che è troppo rumoroso, mi sembra in aereo. C'è la pentola del VHF acceso, l'alimentatore. Ecco qua, adesso va bene? No, più che altro è abbassato di radio. Infatti dicevo, ho preso il brevetto di volo e sta atterrando da qualche parte, poi è già buio e occhio. Sto usando l'alimentatore cinese e c'è la ventolina, capito? E quindi, siccome la camera è vuota, si sente. Aspetta un secondo, guarda. Adesso non sono più in aereo, l'aereo è atterrato. Va bene, adesso sono le 3, 4, 5, 6. Sembra di sì, si è fatto il telegiornale. Riprendi Claudio. Ah, perché non l'hai lasciato com'era, che stava andando bene? Io, Antonello, quando lo sento bene non lo dico nulla. Va bene, sì, no, quel rumore di sottofondo è sempre il solito discorso, dai. Oramai è così, soprattutto con Gianfranco, ma è quello il discorso, cioè se fai questi o lunghi dove c'è insomma un salottino, è chiaro che la mia modulazione rispetto a tutte le altre è sempre quella molto amplificata e quindi devi insomma adeguarti, dai. Vabbè, comunque non è un problema. Possiamo usare anche questo ogni tanto però, perché a me non è che io ce li ho adesso, le uso, le sto facendo girare tutte, adesso domani me ne arriva un'altra e vediamo un po'. Ok, dai, saluto anche a Tony che ha fatto il capolino, un risaluto a Giulio nuovamente, riprendi tu Antonè. Saluto Tony, io non ho sentito per niente perché mi sono spostato, sono andato in camera di Simona e quindi non ho ascoltato il QSO. Un altro barca si sei pigliato, Uia. Allora io ne ho 1, 2, 3, 4 con quello che c'ha Pietro in macchina, che gli ho prestato io, quello monogatto che ho comprato nuovo. Poi, come ti posso dire, tutti sono a 27. Poi c'ho l'altro, quello grande, già lo sai, quello in banda. Poi c'ho quello che fa Wii U, cinese, grande. A parte i portatili che ne ho 2, 4, 6, più 8 sono. C'ho 4 coppie di portatili. No, questo è un Pony base 23 canali, Antonè, che mi hanno dato stamattina, capito? Preso stamattina. Questo è un Pony base 23 canali, il microfono è un microfono da tavolo della Gain, che va bene, no, non sfigge tantissimo, è abbastanza calmo, dai. Che userò per fare QSO quando c'è Gianfranco. Quando non c'è Gianfranco, allora uso sempre il K, tutto qua. Avanti Gianfranco, riprendi. No, quando ci sono io usa il corno di bue, così ti sentono anche i vichinghi. No, volevo chiedere a Antonello se la corno alimentatore è di quelli scheletriti, cioè quelli piatti praticamente, che si vede tutto all'interno con tanti buchi di non so se sia lamiera o alluminio. No, non è quel modello, è il modello prima, che ha solo il foro della ventola e basta, e poi gli attacchi della 220 e della 12 volts e basta, non c'è nient'altro, non è quel modello che è tutto forato, già ho capito quello che stai parlando, non è quello lì. Io ne avevo comprato 2, questo è da 20 ampere e l'altro da l'altro più grande l'ho dato a Corso, a Marino. Sì, te l'ho chiesto perché uno di quegli alimentatori mi ha dato una montagna di problemi, perché funzionava, dava anche parecchi ampere, però mi sono accorto che sulla videosorveglianza mi faceva delle righe. Cioè ho detto, ma caspita, finché una telecamera che si guarda può essere anche comprensibile, ma due o tre iniziano a essere pesanti. E ho controllato, ho messo le maschere, ho fatto tutto quanto, ho detto boh, non sparisce. Ho separato addirittura l'alimentazione anche dell'IVR per cercare di capire se dipendeva da quello o no. Poi ho detto, ma prima non c'era. Ho attaccato quello lì e ho attaccato un altro alimentatore che è lo stesso switching, però con la ventola addirittura, di quelle di PC, di computer. Ho attaccato quello, sparito tutto, visione perfetta e qualità eccezionale. Ho detto, la mazza viene e scenda. Quindi presumibilmente qualche disturbo che magari potresti avere dipende proprio da quel genere di alimentatore lì, che come filtraggio evidentemente lasciano un pochino a desiderare, ma soprattutto col filtraggio RF, perché da me era sicuramente un disturbo a livello della radiofrequenza. E a pensare che sono fatti preferibilmente proprio per la videosorveglianza, però evidentemente non è così. No, perlomeno, vabbè, questo mi dà solo problemi di ventola, quanto, perché se io lo stacco, come è capitato l'altro giorno, quello dell'87, il zio ce l'avevo lo stesso, l'alimentatore suo originale, è questione più che altro di microfono che me la fa, il microfono palmare, invece questo è il Sadelta, che sto usando, siccome mi sono portato su gli apparati che ho dato a Giovanna, qua su a casa, e quindi stavo facendo la prova, capito? Io sto usando il 2009, già lo sa Claudio, c'ha tutti quei bippi, e più c'ho anche il Connex 4000 con il frontalino del 2009, quindi in pratica sono la parte che sta usando Giovanna a casa sua. L'unica cosa che non c'ho è l'antenna, quella a canna da pesca, non l'antenna, la canna da pesca ce l'ho, mi manca solo il filo, che ce l'ho a casa sua, ma quello non me ne frega niente, quello sono di cammino opposto e adesso provvisoriamente lo salite di qua su, perché Giovanna sta facendo le... come si dice, l'albero di Natale e poi la questione delle... tutto per Natale, capito? Quindi allora per la metterlo da una parte fuori in terrazzo e me lo porto su, non se ne seguassi. E infatti sto usando io, adesso poi quando non ci sarà più Natale scenderò l'apparecchiatura giù e gli metterò un, come si chiama, agganciatamuro, quello che è, l'antenna al limite la metterò in terrazzino, adesso bisogna avere una pochettina, in modo che lei lo possa usare, perché non è che non è bello usare con il freddo che c'è adesso, andare in terrazzino a modulare, a parte mi si seccherebbero le palle, quindi Giovanna ha lasciato perdere, già me li porto su, gli ho detto, e poi ho detto, appena sistemano passa la palla, gli ho detto, mettiamo la mensolina e ti metto l'apparato sulla mensolina, anche perché c'è, già lo sai Claudio, mi riporte, e adesso arriva tutto, quindi non vorrei se li metto per dire l'apparato all'altezza di un tavolino normale di casa e si mette a toccare le manopole, cose del genere, mi crepa gli apparecchi, capito? E quindi metto la mensolina, poi Giovanna userà la mensolina in cucina e poi preparare la baracchina, tutto lì. Sì, ok, riprendi Claudio. Dai, io riprendo e vi ascolto per il momento che inizio a prepararmi per sistemarmi il cane. Sono qua comunque. Avanti Antonella. Ok, però sono abituato a sentirti più affascicato, la verità. Con questo microfono ormai ti sento come se ti avessero picchiato a casa di Malalona, affigliate 75 milioni di dollari per esattezza. Come se si avessero rubato il carro armato, come ce l'aveva lui. Attacca un microfono amplificato, non ce l'hai un microfono adattabile per quel tipo di apparato? Penso che ce l'hai. No, Antonio, non ce l'ho perché praticamente... canale, vabbè, ma la radio non è bassa, anche se non amplifica tanto va bene, dai, questa è una radio degli anni 70, Antonio, non è che ci puoi abbinare qualsiasi, a parte il fatto che il connettore non è a 4, è a 5 punte, quindi bisogna fare modifiche, contromodifiche, la lascio così, e io sono un collezionista vintage, mi piace avere le cose senza toccarle, dai, ne ho altre che spingono di più, questa va così, va bene, ma la sto usando perché c'ha una ricezione molto molto bella. Lo so, voi non siete abituati a sentirmi così in queste condizioni, però a volte bisogna anche ascoltare il parere degli altri e far sì che nessuno sia, come si dice, non lo so, vabbè, comunque, questa è, Antonio, dai, questa non posso modificare niente, è un connettore particolare, altrimenti perde il suo valore. Vai Gianfra. Sì, Claudio, adesso di pane frasca, siccome mi è venuta in mente una cosa, non so se tu avevi parlato di alberi, cioè chiamato qualcuno per gli alberi, ti volevo chiedere una cosa, ma tagliare un albero, nella fattispecie un pino, molto alto, con la scala aerea, viene molto? Allora Gianfra, ti dico che noi qua nel giardino, per un albero solo che era enorme, 24 metri, 25 metri di altezza, grossissimo, con la scala aerea ci hanno preso 1200 euro. Ok, 1200 euro, tutto il giorno, l'hanno iniziato dalla mattina per non fare molto casino, dalle 9 hanno finito la sera alle 5, compreso di pulizia, portato via tutto, tutto disossato praticamente, portato via tutto, pulito tutto, 1200 euro. Già me l'hai data la notizia, porca miseria, 1200 euro, vabbè, vediamo un po' di chiedere in giro, il mio non solo, per di più di portar via niente non me ne frega niente, mi interessa solo che cada, perché è spiovente verso la casa, e sai quando c'è molto vento, essendo pino, nicchiaggi, prima o poi, sai come è fatto il pino, un albero un po' particolare. Fai la cosa, fai la tua telefona, fatti qua, dici, c'è un pino da regalare, vengono, te lo tolgono gratis. Regalalo per Natale che te lo prendo. Ah, sei tornato? Per Natale, sì, ci vuole, se lo portiamo via con l'elicottero, quello vuol dire trasporto. Ma tu ci fai un albero di Natale? Se non li metti tiranti. Dai che io... Gianfra, allora una scala aerea tu immaginati, quella da 30 metri, perché l'albero è intorno ai 25 metri, quella da 30 metri costa 80 euro a ora, 80 euro a ora, fatti il conto, ok? Poi c'erano tre persone, l'operatore nel cestello e due sotto, poi ne sono arrivati altri due per fare pulizia, e l'albero era mastrodontico, una cosa esagerata, ok? L'hanno portato, hanno pulito tutto, tagliato tutto a pezzi, portato via tutto, quindi il prezzo penso che se tutti i soldi dell'autoscala, i soldi delle persone che ci stavano lavorando, tra sicurezza e tutto, è così. Poi c'è l'altro giardiniere ad esempio che prende 800 euro per tagliare l'albero, però che non sia più di 10 metri, 10-15 metri, capito? Questi sono i prezzi che ci hanno fatto a preventivo, te lo dico perché io sono rappresentante di scala, quindi so perfettamente vita e miracoli del condomino, e pertanto il prezzo era quello, il preventivo che ci hanno mandato era quello lì, e poi abbiamo dato l'ok perché noi siamo praticamente in 100, quindi ci è venuta una coglionata a testa. Va bene, un abbraccio a tutti e ci sentiamo, saluto anche chi mi sta ascoltando che mi ha mandato il WhatsApp, un abbraccio anche a te, ci sentiamo, dai. Ciao a tutti, QRT per me, vado a portare il cane. Avanti Gianni. Ehi, ciao Claudio, ciao, ci sentiamo, Claudio. Dai, buona passeggiata, tra un po' vado anch'io. Tra mezz'oretta anch'io vado, dai. Riprendi Gianfra. Sì, ok, perfetto, ciao Claudio, buona serata. Ne approfitto anch'io perché non me l'ho accorto che eravamo già le 7 passate, 19:37 per essere esatti. E quindi mi allontano per cercare un po' di cena, ecco. Io mangio presto così, ma lo trovo a mezzo. Quindi ci sentiamo più tardi o domani. Ciao Antonello, ciao Gianni, ciao Claudio, ciao a tutti gli altri che eventualmente possono ascoltare. Riprendi Antonello, alle prossime. Ciao a tutti. Ciao, ci sentiamo Gianfra, alle prossime, stavi bene, buon collettivo, buon tutto. Ciao Claudio, buona passeggiata per il cane. Avanti Gianni, il caldo. Ciao Gianfra, ci sentiamo, dai, siamo, dai. Buona scarica, torno a fare. E allora lì, ci temi conta. Niente, mi sono stato gli apparati di Giovanna, perché Giovanna sta mettendo l'albero di Natale e come si chiama? Dentro la camera. Come si dice? Ma adesso mi viene in mente il nome, diciamo che sono appunto la lingua, ci ha mai capito. Mammi Gesù, eccetera, eccetera. Doveva fare la caverna. Non l'ho più sentita Giovanna la farà. È entrata a lavorare adesso di nuovo, a pizzicotto, quindi. È per quello. Vabbè, come fai a sentire la cazzo con questo freddo nel terrazzino, ma stai scherzando? Infatti gli apparati sono tutti saliti qua. Sto usando il 2009 adesso io. Adesso appena sistemavo le cose, glielo metto in camera, in salone, glielo metto, messo bene come si deve, in modo che c'è il bambino piccolo che c'ha il nipote, almeno la sera si c'ha 5 minuti di tempo, 10 minuti di tempo, fa la palacchino e quello che esce, cosa ti posso dire? Ti mettono una tela di macchina, una mini Grand Prix, adesso vediamo un po', perché la canna pesca è troppo lunga, cazzo, lunga 7 metri, ma se, come l'avevo vista immediatamente, ma l'avessi messa, non voglio la metterla con la mezza. Oh, è il terrazzino, ma stai scherzando la cala pesca del terrazzino, arriva sino al tetto. E mettila direttamente sul tetto, mi fai scendere il cavo, buonanotte. E non faccio scendere il cavo, che non passa nessun posto, ma stai scherzando. Non è così facile, ho passato una palzina tua e una cazzata. Perché l'altra età arrivi direttamente dove c'è la centralina c'è direttamente negli appartamenti. Qui, siccome il palazzo è fatto tutto da cazzo di cane, hai capito? Quindi è un casino. A un certo punto. Ma da qui se stanno andando tutti, mi sa da questa zona. Ce ne sono 5-6 appartamenti che stanno vendendo, mi dai. Te ne sei accorto? Via Morandi. E qua se ne sono andati di fronte a casa, due se ne sono andati. Evidentemente c'è qualcosa che non va, magari condominio, roba del genere. Vabbè, in queste villette che sono via Morandi, come fai a pensare una canna da pesca e ti trovi a 3-4 metri come si chiama, il passaggio del calice, ma stai scherzando, lì ci rimane secco. Ma perché dico condominio molto paga? No, io non pago molto, Giovanna paga intorno, mi sembra, 90 euro, una cosa del genere, mi sembra solo 90-100 euro il condominio, ma è la zona che è l'onfia, capito? Più che altro, quelle palazzine che sono di fronte a me, è la stessa cosa, stanno andando tutti. C'è uno che si è andato ieri nella palazzina marrone, di fronte a casa, l'altro nella palazzina rosa, quindi c'è qualcosa che non va, che non torna, capito? Cioè non è che ti compri ti prendi un appartamento e lo paghi tot per dire, poi prendi e lo metti in vendita. Evidentemente c'è roba di condominio, magari non va d'accordo col condominio, un togliaio qua, hai capito? Pure le case sono belle, dai, è una bella zona anche, ma se lo vai d'accordo con il condominio, che cavolo, in zona buona è. Discorso, vero, vero. Se fosse stato, guarda, quelli villetti di via Morandi, senza esserci quei tralicci dell'Enel, ti giuro avrebbero comprato a chiunque quelle case. Solo che c'è i cavi dei tralicci che ti passano a 7, 8 metri, 10 metri dal tetto di casa tua. Come fai a pensare davanti alle macchine? Ma stai scherzando, cazzo? Il primo fulmine che te scende in casa tua. A parte la paura che c'hai, scariche elettriche, cose del genere, anche se passi in mezzo ai giardinetti, passa a fianco alle case, a quelle villette, il discorso è quello lì. No, disturba, col fatto che disturba. Se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti, dai, vediamo un pochino, non vogliamo monopolizzare. Oh, Gianni. Come va la radio? Già, me la controllo, buonasera a tutti comunque. Salve, ciao. Bene va, va bene. Ah, ok, va. Questa è quella che ti stavo dicendo ieri su un moto zappa. Zappa. No, io va bene, ci sente bene. Ok, va, vai a fare. Ma cos'è quella? Ok, il condizionatore, dai che è acceso. Sembrava, vabbè, la ventola che ho io delle VHF, le quadre in banda, sembra che sono in aereo, ma tu sembra che c'hai un coso agganciato. Lo so, perché c'è un cuscinetto rotto, il condizionatore. Guarda un po' adesso, senti qualcosa. Ah, adesso vabbè, adesso se 9:20 il segnale passa. Radio 5 è perfetta. Quanti watt sei, Massimiliano? 10 watt neanche, 8 watt, ne ha una cinquantina di watt. Bella, va bene. Aspetta, e la sollevo un pochino, è troppo bassa. Ok, va. Aspetta, ho sbagliato, non era quello. Ok, ma così è una quindicina di watt già, va? Intorno a un ottantino di watt. Così si sente anche Gaia. C'è la porta chiusa, sta giocando, va. Ok, comunque così sono una quindicina di watt di portante butta, va. Kappa, no, già va bene, io a voglia che va bene, È certo che ci sta il microfono con la tavolo, è diversa la modulazione, con la tavola è una sangola. Già lo so, già, questa radio, già usaggio così, questo è il 60. Questo è l'MC60? Sì, positivo, questo è l'MC60. Ah, tu pensavo che fosse quello normale io, normale. Microfono. Spinge secondo la tonalità col microfono, c'è poco da fare, anche a me, nell'MC60 lo spingeva, ma l'ho comprato nuovo, poi non è a dire che l'ha toccato. Sono rientrato, buonasera a Toro. Sì, gli hai fatto un po' per presa, ciao. Sì, io già aiutavo, ma ero freddo, una volta di piscia ho già portato anche alle 9:30. Massimiliano, avanti. Sì, positivo, avanti. Saluto a tutti, a chi è entrato anche adesso, ok. E niente, purtroppo è la modulazione, questa è la mia, non ce n'è da fare. C'è chi lo porta meglio che chi lo porta peggio, comunque, abbastanza comprensibile, là. Ok, vai, rilancio Alessio e passo un attimo in stand-by, ok? Ehi, è buona Massimiliano, non ti piace nulla, è buona la radio, secondo la tipica è sempre ancora la problematica. E tu c'hai anche la tipica grossa, Vabbè, c'è chi lo porta bene, c'è chi lo porta un po' così, purtroppo questi sono i microfoni che vanno in base al timbro della voce, là. Comunque, già ti ripeto, abbastanza orecchiabile, va. Ma un secondino solo che vado nel cotiaco piccolo e poi riprendo, va. Vai, Ale. Se ci metti il processore è meglio in quell'apparecchio, però, Ok, va bene, dai, io già ho cambiato radio, perché sono tutta la sera che sto usando il link e il processore, quello attaccato, sì. Ok, dai. Sono passato all'altra base. Buonasera anche a Massimiliano. Molto bene, ok. Quindi, cosa stavo dicendo? Ti volevo chiedere già, ma quella capsula che c'è in quella MB più 5, perché in cuffie anch'io non ho fatto differenza, praticamente è quella verde o quella rossa? Questo non me lo ricordo, è una capsula che avevo, l'ho messa, ho provata, ma va bene, l'ho lasciata. Ma io ho capito, no, perché quello che ho io di Gigi, no, gli altri tre che ho, anzi gli altri due, domani ne compro un altro, gli altri due che ho sono originali, non c'è nessuna modifica, la capsula è la sua originale. Mentre quello che ho comprato da Gigi, la capsula è rossa, e quella tua non l'ho aperta, non so, tu mi hai detto che era, mi sembra verde, non mi ammetto, comunque, già vanno tutti bene con i microfoni, veramente tutti bene, sono contentissimo che con Vinta ci stanno là. Domani prendo, hai visto, questo è un Pony 23 canali, domani mi danno un patch 23 canali simile a questo, cromato tutto davanti, non so se te lo ricordi, però il cassone, la cassa è in legno, questo invece è in ferro. Ho capito, ma a me piace più il ferro, la verità. Quello mi piace di più. Bella, già, bella. Adesso metto la caccia di un tonno più 3 e mi faccio un bel tonno più 3, però quello grigio, non il 3, il più 3B. Quello grigio è proprio americano, se lo trovo porterà un occhio, ma non me ne fotte niente. Lo compro e glielo metto, glielo abbino a quello, gli altri li tengo tutti così con le MB5. Avanti Antonelli, prendi qualche altro passaggio, poi lascio modulare a voi, ok? Così ho la possibilità appunto di farvi due chiacchiere. Avanti Antonelli. La capsula verde è comunque la migliore, rossa non ce n'è, è marrone la verità. La capsula verde è quella che io ho avuto 6 o 7 di videocitofoni, quindi avevo smontato giù in via Rockefeller. Io ho recuperato le capsule, e ho dato un sacco di gente che ha dato quelle. Quelle sono le migliori che ci sono sensibili e hanno una buona radio. Guarda, quella che io ho, il microfono che ho comprato da Gigi Vulcano è rossa, la capsula, è quella piccolina, la lenticchia rossa. Quello non lo ricordo, quello che mi ha fatto a Varigiani non l'ho aperto, nuovo, ho lasciato così, no? Va bene. Dai, riprendete voi, io rimango in QRX, vi ascolto volentieri, vai, così niente, vai, riprendete voi, io me l'ho sistemata qua, ok, avanti già. Ehi, se vuoi restare, parlare, anche problema. Comunque, sì, lo so che le due sono le migliori, io mi sembra che l'ho messa a verde, però adesso non me lo ricordo bene, ma mi sembra che era verde quella che ho messo io. Andava bene, quando l'ho messa, mi hanno detto che era perfetto, adesso mi stavo dicendo che la radio è più buffa, più buona, non lo so. A me è piaciuto lo stesso, va benissimo sia l'uno che l'altro. Sì, già, non sono molto simili, non cambia niente, è chiaro che chi ha una radio simile a questa ha una ricezione superiore, su questo non ci piove, chi ha un baracchino magari ha una ricezione un po' diversa e quindi riceve in una certa maniera, però lì nel massimo io te lo fate sentire tutti, ne ho 4, di MB5, più quello delle game, più quello della Precision e altri due che sono dentro l'armadio. Adesso vediamo, quello che va meglio lo metto su quelli noiti, perché io non lo devo lasciare al pace, che è a 4, cambia solo le connessioni, capite? Che me lo danno domani. Va bene, ma no, già, continuate, io già rimango in QRX, se mai ci sentiamo più tardi. Ok, riprendi Antonio. Sì, ok, comunque la capsula verde è quella che ci avevo dato a tutti, io mi sembra solo 7. Le ho date tutte quante, adesso non mi ricordo, una a te a Gianni, mi sembra una a Massimiliano, poi le altre non mi ricordo a che le ho date, le usavo quelle di 1,100 m, oppure l'F10, l'F24, quello che riusciva benissimo, era una capsula micidiale quella. Erano tutte capsule dei videocitofoni che avevo staccato dal condominio che c'era a Piano Caffelle, quello giù prima, dopo il Conrad in pratica, capito? Avevo ricoperto tutte quanto le capsule e poi siamo staccate eccetera eccetera. Vabbè, comunque andavano bene, poi niente, poi non è rimasto qualcuno, manco a me, figurati tu. L'ultima capsula che verde che avevo messo, l'avevo messa nell'MBP4, quello che ha dato a Marino, che usciva benissimo. Il primo giorno faceva dei schifo quel microfono, dopodiché ho dovuto correggere piano piano eccetera eccetera, poi è andato bene. Poi MBP4 ne ha avuto 3 o 4, quindi mi sembra che l'avevo venduto. Dopodiché l'ultimo che mi ha dato l'ha già trovato da rete, l'ha trovato Pesto, che poi se l'ha preso a coso, se ti ricordi. Ci adesso ricordo a Claudio, che non sta più entrando adesso, in questo momento qua, magari perché è a scuola, non lo so, quel ragazzino. Andare, ok, ripia Gianni. Riccardino proprio, sì. Perché a me mi ha detto, dice, tanto non si vede a casa tua, mi ha detto, che tu non si vede a casa mia, ho detto, mi ha detto tutto di questi microfoni, ho detto, forse come hai capito, ho detto, mafia. Sono venuto a casa, ho detto, me l'avevo visto, niente, tutto, ci hanno comprato, ho detto, quanto l'ho pagato io. Quindi, non è che tu, io ascolta, quando vengono a casa a trovarmi, secondo te se mi vedo un microfono amplificato che esce bene, e lo vedo in queste condizioni non mi piace nessuno, ho detto. Infatti già è capitato, ma vabbè, è stato fortunato quello che l'ha comprato a metà prezzo, quindi gli è andata bene, l'MBP5 naturalmente parlo, non l'MBP4. Infatti ho detto, guarda, dammi le MP4 e non mi do neanche il resto, l'ultima volta. Poi le MP5 è stato venduto a Riccardino. Riccardino l'ha preso, gli ha tornato e poi non mi ricordo che l'avevo preso. L'ho comprato io per un'altra persona, non per me. Quindi viva di tu. Già, va bene. Vabbè, comunque io con il microfono adattato alla mia modulazione è meglio di Salerta, che è l'MBP5 e l'MBP4, la verità. Sono i migliori. Purtroppo uno me l'hanno bruciato, già lo sai anche tu, di MBP5, cioè no, di MBP5 di cose di Salerta. E quindi la fanculo a me che l'ha giurato, la verità. Anzi, glielo avevo prestato. Chissà che gli serve medicina e se la abbiglia in culo. Io c'ho detto a Master Push, ce l'ho ancora, su Galaxy, lo tratto, e va benissimo, ma mi hanno mandato la registrazione, ho fatto un collegamento con Continente, mi hanno mandato la registrazione, che se pari è tutto casa giusta, ma una bella radio. Non te lo ricordi il mio attaccato alla C80, quindi figurati tu. E usciva bene, io sono sempre del parere che la roba quando è mia la devo prestare a nessuno. Se che ci sono io, la uso io e dopo me la porto via, ma prestarla non è dubbio. Io gli avevo prestato, l'abito me l'abito dato, la risposta è quella, hai capito? Speriamo che serve medicine, a me la sono fare medicine con quel microfono, per 4K. Sì, vabbè, è lì. Anche tu devi vedere le persone se sono fidate o no a prestare la roba. Perché se non pensa a me la di da voi mi dai, che non è che... No, non sono tutti così. Aspetta, non ho capito già che mi stava chiamando la prossima, dimmi. Passa in AM, non mi sento qua. Passa in AM. Ho capito, sta facendo la prova radio, ma non ho capito nulla. Infatti, perché non è l'AM. No, andavamo con FM e la M ma proprio non sta uscendo. Sara, ma chi è? Non lo so, la verità non lo so chi è, sta uscendo male, ma basso basso di radio, ma neanche uno. Mi sembrava una in FM anche a me. Babbo, guarda, sono qua. Entra, entra, entra, avanti. Avanti un amico. È sparito. Vabbè, aspetta che scaldo la scheda simula, sto arrivando, dai, due minuti. Brecco, canale 10. Avanti, barrato, forse era lui. Ehi, ciao già, mi serve un controllo radio. Ho dovuto staccare un attimino la boomerang perché devo mettermela a posto e quindi ho messo l'antenna della macchina. Com'è il segnale? Da me è fortissimo, da me sei 5, il segnale è buono, fortissimo. Che antenna di macchina è? Quella che c'avevo, adesso non mi ricordo, quella che avevo prima di montare la boomerang. Non mi ricordo la marca, se era una Sigma, e lei era alta 1,75 credo. Ah, c'era la... Ehi, è nera, sì, col mollone. Roba, quella che c'avevo prima di mettere la boomerang. Siccome mi si era spezzata, mi si era piegata, la sto mettendo a posto. Sto facendo un attraccrucchio. E volevo sapere se c'era variazione di segnale più che altro. No, da me c'è sempre forte, c'è sempre lo stesso. Sta sempre bene, ma siamo vicini, non lo so, come a chiedere a Claudio. Quella lì è l'antenna che stavo cercando io, non ho potuto dire che ce l'ha più. E tu che come hai? Sai perché? Perché la dovevo mettere nella macchina e la volevo vedere così, perché la macchina è nera e mettere antenne diverse non mi piace. Io non sapevo che stessi cercando proprio quella, e niente, ce l'ho. Adesso però è piazzata. Vabbè. Comunque la tengo conto. Quanta 1,75. Ciao Claudio, buonasera. Cosa stai usando? Ho detto, mi sto aggiustando la boomerang, praticamente mi si è piegato lo stilo, quello superiore, niente, sto facendo una crocchia, lo sto mettendo a posto. E sto usando una Sigma, quella col mollone, un'antenna da barra mobile. 9, quasi 9 più 10, sì. 9 e 5, dai. Quasi 9 più 10, va bene. Bene, no, vabbè, l'ho messa in come soluzione provvisoria finché non mi sistemo l'altra, dai. Va bene, ottimo, complimenti. Quasi 9,5, sì, dai. Cioè 9,5. Ok, dai, io rimango in ascolto, lo sto mettendo a posto qua, vai già. No, io quella deve essere l'antenna, come ce l'avevi tu nella macchina, da Saxo. Nella macchina della Guardia Finanza, è uguale a quella, precisa identica, poco buona. Va bene, quella macchina mia poi è nera, a saperlo prima. Ma quella è farfalla però, non è attacco come quello che c'è tu, bisogna cambiare l'attacco nella base magnetica. Non ho capito. E non è come l'attacco tuo, la base magnetica, bisogna cambiare l'attacco nella base magnetica. Perché? Come l'attacco? Per farla. Ah, vabbè, quello lì non c'è problema. No, ma la base magnetica la volevo mettere, fare il buco e metterla fissa con la ricapita. Ciao Bombolino, quella è anche piccolino l'attacco, non è grande come quello tuo. E vabbè, poi un po' se te la va Gianni Borfetta. Ciao Bombolino, riprendi qua lì, ci torniamo un attimo e rispondo al telefono. Buonasera a tutti, buonasera! Buonasera Bombolino, il piacere che ci fa. Ciao Antonio, buonasera. ascolta, vabbè che siamo attaccati, quindi non fa testo. Mi sto mettendo a posto la boomerang, come mi ricevi? Bene, e cosa va avuto la boomerang? No, vabbè, si è piegato lo stilo, quello più sottile. Lo sto sistemando, lo sto raddrizzando, lo sto mettendo a posto. Nel frattempo sto usando l'antenna di macchina, dai, l'importante è che che mi faccia sentire, poi per il resto tutto fa brodo. Gianni Altà, la Santa Maria, ho deciso perfetto. Ok, scusate, dipendente, quello che sto noi, ciao. Ciao Martino, grazie. Vabbè, riprende la forale, dai, ci sentiamo dopo. Cappa, avanti, Bombolino. Cappa, cappa, ciao Marino, buonasera. Buonasera. Ma non è che intendi fischi e fiaschi, no? Ciao Marino. Ciao Gianni, ciao. Cosa hai detto, la stai dicendo? Ho capito, Mari. No, mi stai dicendo qualcosa. Ho detto su Santiago Gianni. No, non ho deciso passare da qui a Italia. Tu lo sai che la famiglia sta arrivando. Gianni, non sorride. Tutti a... Tu dici da casa siete, giurà, tu dici da sotto vi siete messi, ok? Altro che poi se ne sono cosa, ciao. Siamo tutti sotto a c'è. Cappa, cappa, tutti sotto a zitto, Gemmo. Cappa. Già, ma fischi ci sono? No, negativo, anche. Allora già va bene, dai. Mi sa che Marasucci va via, rimane, con le CP attaccato. Prova a attaccarlo, vedete. No, c'è, c'è, c'è. C'è anche bene di radio, è forte. Cappa, con le SP forte di radio. Sì, sì, abbastanza. Così senza SP com'è? È un po' più basso. Allora già va bene, dai. No, perché ieri stava un pochettino rompendo, stava. Adesso dai, sicuramente ho migliorato qualcosa, deve essere già qualcosa che non andava. La mazza che ti varia. Un pendie. Era lineare che ha attaccato che non andava. No, no, no, no, c'è, c'è. È tranquillo che c'è. Io prendi sui rumori. Come quel rumore? Dopo c'è il sole, stacca. Adesso sta cominciando, via. Prova a vedere. Adesso mi allontano, com'è? Allora, se vuoi che noi ti diciamo che è il rumore, devi scacciare portate senza parlare, vai. Non frusciare, non devi parlare niente, prova. Ecco, ci vediamo tutti di volta, e ti muoio a frusciare. Come fischio lo copri, ma si sente il rumore. Staccale quel PP, cosa è, quel processore che avevi ieri, staccalo. Cappa, non capisco perché sta facendo così. Ho l'umidità, boh. Ma ieri non attaccavi qualcosa per amplificare la radio? Sì, già l'ho attaccato, già. Staccalo. Prova a vedere adesso. Adesso non c'è più, non usare, tanto non vanto, non usare. Non ho capito perché ho l'umidità, boh. All'inizio non lo stava facendo, e dopo la fa. Ma non sperava, mi devo mettere tutto a posto qua, faccio un mezzo casino, questi cavoli devo rientrare dietro, metti, piazzarmi l'altra radio sopra, devo fare un pochettino di ordine, devo fare qua dentro. E fallo! Fallo, sabato lo posso. Che cazzo ci porta la busta? Con tutta la roba. Domenica volevo dire, domenica mi metto e me lo faccio. No, perché non mi piace. Adesso io ho piazzato questo, eccetera, eccetera. Cazzo di Marasucci, Ah, vabbè, le batterie nuove sono importanti, le vediamo un po' se riesce. Devo scendere già a portare il cane, dai, vi lascio, per il momento, poi magari ci sentiamo laggiù. Vi piazzo le batterie nuove. Cos'è, uguale a quello là, No, questo è Inter, lo stesso. Però è un altro momento. Cappa, dai, no, già va bene. Ma la pompa questa radio? Insomma, così è tu, dai, no, sembra normale così. Ma per cappa, quando ti vuole SP fa un po' di più. Sì, con SP sì, ma si sente rumore, quindi non ti che lo metti. Dai, riprendete voi, io vado, metto le batterie per portarti e scendo giù, dai, ok, a dopo. Cappa, a me devo sistemare un pochettino le cose qua. Quando mi sistemo tutto sono sicuro che va un po' meglio. C'è qualcosa che non va, c'è, perché deve pompare la radio. Non è così, no. Pure io voglio provare una cosa, Hai detto che l'attacca l'altro alimentatore, se a me mi c'è pigliando di baruguro, guizzo. C'è un cacciavite, e non verrà giù il minoretto. Vabbè, là. C'è qualcuno? Tutti spariti? Giusto a te. Bombolino. Ehi, avanti! Come chi è? Ma non mi riconosci. Ti ho detto avanti, non chi è. Adesso voglio provare con un altro alimentatore. Radio Troia. E cosa vuoi ti dica? Oh, Giaccio, sto andando con colponi 23 canali, bene va? Va benissimo, Cra. Non ho capito perché fa così quando metti quel... non riesco a capire. Un mistero, va benissimo, Cra, mistero della fede, che... Sto prendendo nuovamente il microfono, beh, questo lo spinge un po' di più, quello là è troppo debole per i miei gusti. K, cosa c'è, Pompo? Ho detto che strano che sei di radio, sembri basso di radio in asilo. Davvero sì, basso di radio sono. Sì, ha ragione Antonello, un po' bassino sì rispetto alle altre volte, cos'hai toccato? Ho toccato l'SP. Hai toccato l'SP, cos'hai che sa radio? Boh, non riesci a comprendere io. Guarda a vedere adesso di radio come sono. No, sempre uguale sì, Antonello, sempre uguale, no, non ha cambiato niente, bravo Antonello. Sempre uguale. E beh Antonello, adesso meglio va, pompa di più. Aspetta che gli metto un coso sul tabacchino che ce l'ho uno attaccato all'altro, adesso aspetta. Ho rimesso l'MVP5 qua, è troppo bassa quella modulazione, tocca stare gridando qua per farti sentire, questa spinge un po' di più dai. Ora! Ascolta, ma i toni a due così li posso lasciare, va bene? Sì, è perfetto. Adesso come mi sentite, un po' meglio? Beh, tanto quel rumore non ce l'hai più, però la modulazione mi sembra più bassa rispetto alle altre volte. Non lo so. Cosa ne gioco? No, non è, questa è quell'altra radio, non è quella radio che utilizzo sempre, non è il 550. Ah, ecco, toglielo quel DSP, Anto, toglielo che ti porta quel rumore, toglielo, tanto non c'è un manuda. Dabbi in culo, lo tolgo. Toglielo questo DSP, non serve a nuda, te l'ho detto anche ieri, coso. Va bene così, va bene così. Sì, va benissimo, non c'è nessun rumore. Andrà bene, dai. Tengo così, no, ho provato l'altro alimentatore per vedere come si comportava, mi pare che gli ripiazzo quello che c'era e basta, era solo una prova. Vedi un po', se secondo te va meglio quello là, metti quello là, ma ti ripeto, se tu inserisci quel cazzo di SP, ti porta, ti crea questo problema, tu ho capito, lascialo lì, avanti a me. Beh, infatti, di sotto mi sono abbonato a me, adesso è come se uscisse con un baracchino con un microfono di quelli abbonati, cazzo. C'era due giorni fa la più forte, adesso è calato proprio, sembra che abbia sceso i vasi. Quasi te ne pari tu, è un altro apparecchio Antonello, è un apparecchio che mi hanno regalato omologato, punto e basta, se pigli un altro vedi che pompa. Con l'altro mi sono modulato, niente lo ricordi, ci piglia anche gusto, gatto. Con questo ti sono modulato io come quando voglio, gatto, a un certo punto. Va, se cazzo sovramoduleggi tu. Barrando. Non mi fai incazzare, se no ti attacco il lineare, vedi? Io attacca. Guarda che c'è un BV2001, un 6 valvole e 300 euro, mi. Non mi costa nulla a me, fammelo arrivare, per posta. Tutta a valvole. Ma non ho già su una gara di bruciarmi gli apparecchi, non siamo più come una volta, no, che siamo nel regino 113, adesso c'ho il 58, se attacco quello mi si incendia, il baracchino anche il lineare, non ha più gara, è finita l'era ormai, mi fa le gare. Ma io sono più giovane di te, le gare le devo ancora fare, quindi... Attenzione, c'è mi compareggia un bel potente. Ma lasciate stare, ma soldi da buttare all'energia, avete che... Gamma, io sono più giovane di lui, ancora l'esperienza con gli amplificatori me la devo fare, quindi devo ancora ce li ho ma non li uso, ho già dato all'Enel, adesso se la prende in culo. Ma io se voglio attaccarli qua ai baracchini c'ho il B300 e poi c'ho il l'LA500 che poi è 550, capito, transistorizzato, almeno quelli non consumano, quelli a valvole consumano un casino di luce. Chi è che voleva entrare? Avanti. Avanti l'amico che poco fa ha parlato sopra di Antonio. No, però tu devi stare zitto, Antonio, un attimino, che mi sembra un istano. Daniel, sei tu? Attento Daniel, se no cambio radio, mi senti? Aspetta che cambio radio.